24 mattino di Alessandro Milan. Alle 7:21 minuti, eccoci cari ascoltatori, ben ritrovati. 24 mattino e radio24.it, siamo in diretta fino alle 9. Il nostro sondaggio di oggi, parliamo di un caso di cronaca. Qualche giorno fa a Padova appare una scritta: se non doni il midollo, ucciderai tua sorella. Un'accusa pesante nei confronti di una cittadina di Padova, riconoscibile da questa scritta, perché questa signora si è rifiutata di donare il midollo alla sorella gravemente malata ed è stata così messa in qualche modo alla gogna pubblica. Un tema molto delicato che tratteremo alle 8:30. Secondo voi è un'accusa giusta? Questo vi chiediamo, oppure entra tutto nelle sfere delle scelte personali, nelle scelte individuali, nelle scelte etiche insindacabili? Ne parleremo alle 8:30, avremo anche in collegamento una delle due protagoniste. Voi votate su radio24.it e allora, come di consueto, è il giorno del discorso di Berlusconi, è il giorno in cui lo leggiamo sui giornali, esonda la politica. In primo piano. Mercoledì 29 settembre, poi vedremo i titoli di apertura, tutti dedicati a questo. Anche il Sole 24 Ore apre: Berlusconi all'esame di fiducia. E i titoli di tutti i giornali sono sul discorso di Berlusconi. Io però voglio partire, come di consueto, da qualcosa di diverso. Vi ricordate? Voglio fare un flashback. Qualche giorno fa, quando l'assessore di Chieri in provincia di Torino, Giuseppe Pellegrino, aveva detto questa frase shock sui disabili che disturbano a scuola e dunque bisognerebbe convincere i genitori a spostarli in strutture a loro dedicate. Ebbene, gli avevamo dato il premio Camomilla a colazione, ora bisognerebbe istituire il premio Bromuro a colazione a chi? A una persona che oggi si guadagna mezza pagina sul Corriere della Sera, perché commentando su Facebook quelle frasi dell'assessore Pellegrino di Chieri, ha detto: sì, sono troppi i disabili nelle scuole, torniamo alla rupe tarpea. No? La rupe tarpea da cui nell'antica Roma venivano gettati i traditori condannati a morte. E questo genialone che commentava le frasi di Giuseppe Pellegrino si chiama Joan Maria Pini, è compositore e docente di armonia al Conservatorio di Milano. Intervenendo su queste dichiarazioni, appunto su Facebook, ha instaurato un dialogo con altri utenti di Facebook, al che gli dicevano: mi scusi, gli altri alle sue posizioni, posizioni che erano di empatia verso quell'assessore di Chieri, hanno detto: ma scusi, ma sta impazzendo, torni, lei sta tornando indietro di 40 anni, chi gli ha dato del Mengele, no? Il nazista che faceva gli esperimenti di eugenetica. E Pini risponde così: indietro bisogna tornare? Alla rupe tarpea bisognerebbe tornare, stiamo decadendo geneticamente. Ovviamente rispetto i singoli dolori, situazioni personali, ma il discorso generale è questo. Mio papà mi insegnava, maestro elementare, che prima della didattica viene la genetica. Stiamo vivendo nel periodo più triste della storia dell'umanità. Tutto è contro natura. Fortuna che anche il nostro Gianluca Nicoletti si è molto incazzato, diciamo la verità, nel suo blog ha coinvolto questa persona dicendo: vorrei sapere di quale armonia possa insegnare questo signore ai suoi studenti. Ricordiamo che è docente di armonia al Conservatorio di Milano, Joan Maria Pini. Che poi ovviamente, come succede in questi casi, si dice amareggiato, le accuse io razzista, è inconcepibile, figuriamoci se penso che i disabili debbano essere buttati dalla rupe tarpea. Sono stato pesantemente insultato, ma il mio era solo un riferimento al mondo antico, quando i soggetti più deboli soccombevano. Troppi disabili nelle scuole, torniamo alla rupe tarpea, lo trovate sul Corriere della Sera. A pagina 23 si animano anche così i blog, ma prima della pubblicità e meteo voglio leggere oggi La Macca di Michele Serra, perché è una lettura spassosa. Un importante quotidiano dedica la sua prima pagina al probabile ritrovamento di una cucina Scavolini. Un premier europeo è accusato di controllare 64 società offshore attraverso le quali avrebbe sottratto 884 miliardi di lire al fisco. Un celebrato playboy viene accusato dal suo anziano amante gay di averlo mantenuto per anni. Un ministro definisce porci i cittadini della capitale del suo paese. Un sindaco fa sgomberare dai carabinieri i giornalisti che volevano seguire una seduta del consiglio comunale. Un miliardario a lungo latitante nei Caraibi torna in Italia per spiegare in TV che i numeri vincenti del Superenalotto erano i suoi e non quelli della sua ex fidanzata, nel frattempo diventata moglie del presidente della Camera. Si indaga sui brogli elettorali che hanno falsato un reality show. Il Papa annuncia che imbiancherà personalmente il suo appartamento in Vaticano. Viene reso pubblico il regolare contratto di assunzione con il quale un governo ha pagato il voto di due parlamentari esterni alla sua maggioranza. Una sola di queste notizie è falsa. Sapreste dire quale? Vi ho un po' aiutato, forse, con l'intonazione. In primo piano. Alle 7.35 minuti, allora eccoci qua, il giorno della politica, detto e precisando che ci scrivono qualche ascoltatore, un ascoltatore, la Rupe Tarpea era Sparta e non a Roma. No, no, la Rupe Tarpea era a Roma, a meno che non l'abbiano spostata dagli antichi, la Rupe Tarpea era a Roma. Questo è un dato di fatto. E allora, è il giorno di Berlusconi. Berlusconi alle 11 parlerà. Radio 24 trasmetterà in diretta, tra l'altro, il discorso del Presidente del Consiglio. Il titolo più gettonato: Berlusconi all'esame fiducia, questo per il Sole 24 Ore, Berlusconi chiede la fiducia, addirittura Repubblica e Corriere hanno lo stesso identico titolo. È questa la novità più interessante. Berlusconi ieri un po' sorpresa per molti, come scrive Mariolina Sesto oggi sul Sole 24 Ore, pagina 3, ha chiesto la fiducia. È giunto il momento di fare chiarezza e la chiarezza ora è da privilegiare rispetto al mero calcolo numerico. Questo avrebbe spiegato i vertici del partito riuniti ieri nella residenza Palazzo Grazioli. Dunque, un presidente del Consiglio che chiede la fiducia anche in prima pagina del Foglio. L'analisi è questa: nessuno scioglimento, i duellanti del centrodestra, cioè Fini e Berlusconi, sono destinati a rimanere ancora nel limbo, sospesi tra una tregua guerreggiata e un vero conflitto nucleare. L'atteso showdown non sarà oggi. I finiani, salvo imprevedibili sorprese, ascoltate le parole del Premier, voteranno infatti la fiducia al governo. Né Berlusconi né Fini si sono risolti a superare la pazzotica situazione che li descrive nemici e allo stesso tempo li costringe a restare formalmente alleati. Nessuno sembra volersi assumere la responsabilità di una rottura dagli esiti incerti e rischiosi per entrambi. Insomma, il Foglio dice: che succederà? L'unica sorpresa potrebbe arrivare dal tabellone di Montecitorio. Quanti i voti del centrodestra senza Fini? Si parla di nuove acquisizioni centriste, ma rischia di essere un puro esercizio aritmetico. In sostanza, però, voto più, voto meno, la vecchia maggioranza non c'è più. E cioè, questa è l'analisi politica che un po' fanno tutti i commentatori. Potrebbe esserci anche, appunto, il voto di fiducia presumibilmente, e dunque è tutto normale. In realtà che sia cambiato qualcosa è abbastanza sotto gli occhi di tutti, vista anche la, usiamo questo termine, compravendita, come qualcuno ha detto, o comunque il passaggio di molti parlamentari da uno schieramento all'altro negli ultimi giorni. Tanto è vero che guardate con che durezza si esprime oggi Ernesto Galli della Loggia in prima pagina del Corriere della Sera nell'editoriale dal titolo «Cosa dirà forse il Cavaliere?». Non è la prima volta che Galli della Loggia attacca l'attuale maggioranza, ma oggi usa parole davvero dure. Con le sue divisioni, i suoi personalismi, le sue inettitudini, la maggioranza di destra, tutta quanta, da Bossi a Fini, passando per Berlusconi, ha portato il paese nel più completo marasma politico. Il guaio è che dopo questo marasma è prevedibile solo un marasma ulteriore, fino al caos. Poniamo infatti che oggi la Camera dicesse no alla fiducia. Cosa potrebbe fare il Presidente della Repubblica per evitare elezioni anticipate? O un governo con una risicatissima maggioranza omnibus da Fini a Di Pietro, o viceversa un governo di larghissima maggioranza sinistra-destra-centro, magari affidata a un esponente della destra, Tremonti, come Undini reincarnato? Bene, alzi la mano chi pensa che l'uno o l'altra di queste maggioranze possa esprimere un minimo di coerenza programmatica. Ed ecco allora, è solo questo fatto, dice, solo l'impossibilità di scorgere alternative realistiche che può portare oggi ad augurarsi che il governo in carica resti al suo posto. Ecco l'analisi molto dura di Galli della Loggia, in attesa che prima o poi l'opposizione di sinistra riesca in ciò in cui fino ad oggi non è riuscita, costruire un'unità credibile intorno a un leader e un programma credibili. Fino a quel giorno appare inevitabile augurarsi dunque che l'attuale maggioranza regga, ma essa può farlo e potrà ancora godere di qualche consenso solo se oggi Berlusconi saprà trovare il tono e le parole appropriati, se saprà dire alcune cose che l'opinione pubblica si attende da lui, per prima cosa qualche spiegazione di autocritica per la scarsa capacità realizzatrice mostrata finora, per la scelta di circondarsi in troppi casi di persone inadeguate, Scajola, Brancher, Verdini, Cosentino, infine per il clima moralmente un po' troppo disinvolto che è emanato in tutto questo tempo dalle stanze del potere o più spesso dalle sue camere da letto. No, ma notate l'attacco durissimo di Ernesto Galli della Loggia, analisi impietosa, cioè, come dire, meglio tenersi questo governo ma solo perché non c'è una valida alternativa credibile. Sta di fatto che cosa dirà oggi Berlusconi? Si parla di questo discorso possibilmente di alto profilo, secondo Francesco Verderami sul Corriere. Non ci saranno delle, anche se Berlusconi sarebbe tentato per esempio sul piano della giustizia di rilanciare sulle intercettazioni, sull'obbligatorietà dell'azione penale, ma sarebbe come maneggiare materiale radioattivo. In questi giorni sia Gianni Letta e persino Nicolò Ghedini, scrive Francesco Verderami, stanno cercando di invitarlo a desistere di toccare questi argomenti. Comunque staremo a vedere alle 11. Sta di fatto che invece è sotto gli occhi di tutti quello che sta succedendo, e cioè prima si parlava di questa fantomatica quota 316 di voti per i quali c'è una maggioranza certificata anche senza l'eventuale apporto dei Finiani. Ora la richiesta della fiducia probabilmente vanifica un po' questo discorso, perché presumibilmente i Finiani, di fronte alla richiesta di fiducia, al voto di fiducia, voteranno sì, altrimenti insomma certificherebbero in maniera molto molto evidente di essere contro, si assumerebbero la responsabilità anche di un'eventuale crisi di governo. Però certo continuano questi passaggi, gli ultimi sono sette parlamentari che hanno lasciato schieramenti dell'opposizione e ora si preparano, pare, a votare la fiducia. Uno di questi, tra l'altro, è l'onorevole Massimo Calearo, che vi anticipo sarà nostro ospite alle 8:20 nell'intervista. E poi c'è, non so, il Corriere intervista Cesario, un altro che ha lasciato con Calearo l'API di Rutelli. È mezzogiorno, racconta Fabrizio Roncone, sta girando la voce che anche l'onorevole Bruno Cesario avrebbe deciso di schierarsi con Berlusconi. Eccolo qui, sto ancora valutando. Dica la verità, onorevole. Oh, santa pace, dai, coraggio. Allora va bene, esco dall'API e resto nel gruppo misto. Sostiene Berlusconi? Ascolto il suo discorso. E poi? E poi, se sarà convincente, non esiterò a sostenere il governo. E sa perché? Per un senso di responsabilità verso il paese. Ecco, questa frase la troverete spesso, il senso di responsabilità per il paese. È una delle frasi che più spesso dicono queste onorevoli che stanno cambiando schieramento. Come l'hanno convinta? Non mi hanno convinto. Cioè, come dire, non mi hanno offerto nulla in cambio. Più sotto c'è un altro, Italo Tanoni. Come detto, vi dovete abituare a onorevoli e dai nomi magari ai quali non siete molto avvezzi, magari non sono sempre la prima pagina, ma in questi giorni invece stanno diventando importanti. L'onorevole Italo Tanoni fa parte dei liberal democratici, sono credo in tre gli ex diniani. È andato ieri a Palazzo Grazioli, racconta sempre il Corriere. Allora Berlusconi l'ha convinta, ma non si può proprio dire che mi abbia convinto. Non abbiamo ancora capito cosa intende, per esempio, per riforma della giustizia. Se propone il processo breve o altre cose che non potremmo digerire, allora non votiamo il discorso. D'altronde la mia collega Daniela Melchiorre è magistrato ed è molto sensibile a quel punto del programma. Voterete quindi no alla fiducia? Stiamo riflettendo. Stanno tutti riflettendo, vogliono tutti ascoltare il discorso di Berlusconi. L'unità è molto dura, al gran bazar dei deputati vanno ministeri e candidature. Sapete che Bersani ha parlato di vera e propria corruzione, mentre il Fatto Quotidiano oggi fa una cosa che ha in esclusiva e che è questa, dalla quale ripartiremo dopo il traffico. Ecco le telefonate di... tra un attimo il traffico. Ecco le telefonate di Cosentino con gli uomini di Gomorra. Cioè, sapete che il Parlamento ha negato l'utilizzo delle intercettazioni nell'inchiesta dell'ex sottosegretario Cosentino, che è accusato di associazione camorristica. Il Parlamento ha detto no a queste intercettazioni. Il Fatto cosa fa? Dice: ecco qua, ve le pubblichiamo noi. Non sono disponibili per i giudici, siano disponibili ai lettori. In primo piano. Uè Peppino, uè Gianni, onorevole carissimo, ti abbraccio forte forte. Marco Lillo e Antonio Massari sul Fatto Quotidiano a pagina 2 e 3 pubblicano oggi tutte le intercettazioni, le 46 chiamate di Nicola Cosentino con quelli che il Fatto definisce gli uomini di Gomorra. Così Nicola Cosentino salutava i suoi quattro amiconi, tutti arrestati, uno di loro ucciso dalla camorra per il suo tradimento del patto con i boss. I padroni, i manager delle imprese camorristiche che avevano confidenza con Cosentino perché, secondo il PM almeno, era lui il vertice della cupola. E via con le varie telefonate, quelle che la Camera ha detto non diamo a disposizione dei magistrati per l'utilizzo dell'inchiesta. Sapete, c'è stato questo voto. Ed eccole qui le telefonate. Per la verità non sono telefonate in cui, cioè sono telefonate nelle quali si accorda Cosentino per alcuni appuntamenti, tipo dove sei, domani a mezzogiorno ci vediamo, sì, al solito posto, eccetera. Solo che parla per il Fatto Quotidiano con alcune persone, non so, Michele Orsi, oppure tale Vassallo, persone che sono considerate persone vicine alla camorra. Ecco che infatti, secondo il Fatto Quotidiano, che pubblica tutte le telefonate, ripeto, non le leggo perché non c'è niente di in maniera evidente compromettente. Il fatto strano sarebbe in sé il fatto che Cosentino parlasse con queste persone. E il Fatto dice: eccole qui, altro che telefonate che non contano nulla, sono telefonate che sono tutt'altro che irrilevanti, perché dimostrano i legami, appunto, che Cosentino aveva con questi soggetti legati alla camorra, uno dei quali è stato anche ucciso. Ecco le telefonate di Cosentino con gli uomini di Gomorra. Trovate molto sui giornali anche sempre di politica. E attenzione, perché Calderoli ha detto questa frase che il Corriere mette in evidenza a pagina 2 in vista del voto di oggi. Calderoli ha detto: guardate, ieri davo al 50% la possibilità di elezioni anticipate, ora secondo me siamo al 75% di possibilità di andare al voto anticipato. Qualcuno potrebbe leggere così quello che sta succedendo, un po' di mal di pancia da qualche giorno tra la Lega, no? Per parlare solo dei porci romani e il diciamo e Roma, insomma, questa diatriba che si è venuta a creare. Sapete oggi come titola La Padania e vi dedica 12 pagine a questo tema? Il Nord si incazza. Bossi, monta la rabbia, i padani non si fanno più ingannare. Anche a pagina 2 il Nord è incazzato, basta con il latrocinio. E ci sono ben 12 pagine sul rapporto conflittuale, a dir poco, con il potere romano, così come è definito all'interno della Padania. Tanto che anche dai giornali si evince che c'è qualcosa che sta venendo fuori, i rapporti, qualcosa si sta spezzando probabilmente tra la Padania, i vertici della Lega Nord e i vertici del potere romano, così definito. Per esempio, un'altra vicenda è quella che ritorna oggi sulle pagine del giornale, è quella di Adro, la famosa scuola dove il sindaco Oscar Lancini ha fatto mettere, credo, 800 simboli, 700 simboli del sole delle Alpi, che rievocano sicuramente anche la Lega. Adro, lo stop di Napolitano, è arrivata la lettera del capo dello Stato, una lettera ai genitori della scuola in cui il capo dello Stato apprezza il passo compiuto dal ministro Gelmini, che ha invitato il sindaco di Adro a rimuovere quelle esibizioni, ha ribadito la sua convinzione che nessun simbolo identificabile con una parte politica possa sostituire in sedi pubbliche quelli della nazione e dello Stato, né questi possono essere oggetti di provocazioni e sfide. Dunque, nuovamente la vicenda di Adro, che pone la Lega ancora una volta sotto L'occhio del ciclone torna sulle pagine dei giornali per questa lettera di Napolitano. Trovate molto anche della vicenda che ha letteralmente terremotato, questa è una vicenda di cronaca, il Parco delle Cinque Terre. Il Parco delle Cinque Terre è stato ieri arrestato il presidente Franco Bonanini insieme al sindaco di Rio Maggiore Gianluca Pasini, altri dirigenti con accuse molto molto dure, quello di utilizzare fondi dello Stato e dunque truffa, ma non solo, di queste accuse devono rispondere. In questa vicenda viene coinvolto anche nei giornali il ministro Brunetta. La mossa per usare Brunetta, sul Corriere della Sera, lo leggo a pagina 17, gli faccio fare un'ispezione. La vicenda cos'è? È raccontata per la verità in modo un po' diverso dal secolo XIX, rustico a prezzo di saldo per ingraziarsi Brunetta. Cioè, in questa vicenda che ha portato all'arresto del presidente del Parco delle Cinque Terre Bonanini, secondo i magistrati, nelle 900 pagine d'ordinanza, si era arrivati con il presidente del parco, Bonanini, che era arrivato a strumentalizzare l'amicizia col ministro Brunetta, manifestando l'intenzione di rivelargli l'esistenza di indagini irregolari così da suscitare nel ministro l'impressione che queste siano perfidamente dirette a danneggiare il prestigio della sua figura pubblica. E secondo i magistrati, le persone che sono state arrestate avevano intenzione di utilizzare 40.000 euro dei fondi europei destinati a una località per pagare una ditta che stava ristrutturando un rustico in località Santuario di Montenero, un rustico secondo il secolo XIX comprato poi dal ministro Brunetta. Anche il ministro Brunetta, anche il secolo XIX infatti la spiega così: sono stati gli accertamenti proprio sul rustico comprato dal ministro Brunetta a far scattare l'inchiesta delle Cinque Terre, un rustico comprato dal ministro per 40.000 euro. Questo scrive il secolo, una cifra rivelata dal presidente del parco Franco Bonanini, e Brunetta, secondo il secolo XIX, Brunetta che ricordiamo non è indagato in questa inchiesta, secondo i PM avrebbe comprato quel rustico nelle Cinque Terre pagando nei fatti solo il valore dei lavori effettuati, 40.000 euro. Una versione un po' diversa da quella che dà il Corriere della Sera, cioè nella quale invece viene detto che era il presidente del parco che voleva in qualche modo ingraziarsi Brunetta, aveva cercato di strumentalizzarlo dando o promettendo di fargli pagare un rustico meno per poi in qualche modo ingraziarselo. Insomma, certo, una vicenda molto complicata, anche qui trovate una serie di intercettazioni mica male. Io devo finire, l'ultima segnalazione è questa: è riapparsa Rubina. Voi dite, chi sarà Rubina? Rubina è quella ragazza del centro sociale a Scatasuna che ha lanciato il fumogeno a Bonanni, leader della CISL. Nicolò Zancan l'ha intercettata, pagina 19 della Stampa, in un'altra iniziativa del centro sociale a Scatasuna. Rubina Fronte, figlia di un magistrato, ma dice: tirare in ballo questa cosa di mio padre è vergognoso, visto che gli errori o meno dei figli non devono ricadere sui genitori. Però insomma, ma voi avete, lei ha tirato un fumogeno a Bonanni. Io penso, anzi noi pensiamo, che la democrazia sia avere pari diritti e pari opportunità, ma è differente per chi parla per tanti altri, come nel caso di milioni di operai. E quindi secondo noi, parla sempre al plurale maiestatis, no? Parla per il centro sociale, era importante non farlo parlare. Ma scusi, impedire di parlare è democrazia? Non era impedire di parlare a una persona, ma a chi mette in pericolo i diritti fondamentali di milioni di lavoratori. Questa è la parola di Rubina. Il fumogeno a Bonanni, giusto non farlo parlare. Lo rifarebbe? Questa è una domanda a cui non voglio e non posso rispondere. 24 mattino. L'intervista. Alle 8:24 minuti, eccoci, ben ritrovati da Alessandro Milan, protagonista oggi della nostra intervista, l'onorevole Massimo Calearo, che saluto. Buongiorno onorevole. Buongiorno a lei. Ha lasciato l'API per andare nel gruppo misto. Qua, onorevole, negli ultimi giorni leggo anche dai giornali le accuse più morbide che le fioccano addosso è quella di essere un Volta Gabbana, ma c'è di peggio, credo, che le stia capitando, addirittura minacce di morte le ha denunciato. Ma molto di peggio, nel senso che c'è la politica e una certa politichetta, c'è l'ideologia molto presente a sinistra. Io pensavo che non esistesse più, che un certo Partito Democratico, che mi era stato presentato a suo tempo da Veltroni, il partito che poteva mettere insieme capitale e lavoro, che poteva creare un'alternativa all'attuale governo, un partito alla Tony Blair. Non è così, almeno parte di questi militanti sono fermi a prima del muro di Berlino e mi scrivono e mi apostrofano in una certa maniera. Ma con nome e cognome o no? Beh, direi che i più pesanti no, e molti sì, molti con nome e cognome. Per esempio quello che è la più delusa, se vuole fare un nome. No, ma vede, non è una questione di delusione, è una questione di educazione, sono due cose diverse. E di buon gusto. Io ho ricevuto anche messaggi di persone che non condividono quello che sto facendo, ma con garbo me lo spiegano e con garbo a loro rispondo. Senta, Bersani ha parlato addirittura di compravendita, di corruzione per quei parlamentari che stanno lasciando alcuni partiti per altri. Lei si sente offeso, tirato in ballo? Ma vede, non so a chi si riferisse il segretario Bersani. Nel fargli gli auguri di buon compleanno, visto che oggi è il suo compleanno. È vero, anche di Berlusconi. Facciamo gli auguri anche al Presidente del Consiglio. Credo che lui sta facendo di tutta un'erba un fascio e probabilmente giudica le persone con il suo modo di agire. Io, grazie a Dio, vivo del mio, non mi è stato chiesto niente dall'attuale governo, dal Premier, e non ho chiesto niente. La mia in questo momento è un atto di responsabilità che probabilmente prima di sera andrà scemando, perché se c'è la fiducia e il partito di Fini dà l'appoggio al Presidente del Consiglio, non ci sono grandi difficoltà. E quindi questo vuol dire che lei ha deciso come voto o vuole sentire prima? No, io sento il Presidente del Consiglio, vede, non ho venduto, non me l'ho fatto comprare a nessuno il mio voto, uso grazie a Dio ancora la mia testa, guardo quello che saranno le proposte del Premier e poi con coscienza deciderò da fare. Anche se Veltroni ha detto, lei è stato eletto nel PD, lei però dice era un altro PD, quello di Veltroni, e quindi Veltroni dice deve assumersi la responsabilità di essere... Guardi, le posso dare uno scoop? Sì. A cui pensavo stanotte. Dica. Penso che se il governo avesse i numeri anche senza di me, e quindi non si va al voto, anche se il discorso del Presidente del Consiglio fosse apprezzabile, potrei tranquillamente astenermi per ripagare, e con questa è un'operazione chiusa, l'amico Walter Veltroni. Cioè, operazione chiusa, diciamo, quell'esperienza è finita del PD. Sì, senza dubbio. Perché era il PD di Veltroni, è un altro PD. Ma credo che non sia io a dirlo, sono i fatti che lo dimostrano. L'ultima domanda, onorevole, c'è questa famosa questione del Ministero, no? Del Ministero dello Sviluppo Economico. Lei ha detto non mi hanno offerto nulla, però se mi chiamassero... Insomma, ci spieghi qual è la situazione? Mi auguro con tutto me stesso che non mi chiami nessuno, come non hanno fatto fino adesso. Finché si scherza, poi quando si deve lavorare è una cosa seria. Molte delle persone che scrivono, che chiacchierano e magari mi augurano, come qualche mio ex collega di API, di fare il ministro, è perché lui ci metterebbe anche la mamma pur di farlo. Io invece spero che nessuno me lo chieda, perché è una cosa molto seria, che applica molto tempo, e ci sono tante altre persone più brave di me pronte a farlo, quindi tanti auguri al futuro ministro dello sviluppo economico. Non me lo vuol dire che è il più maleducato, che è stato il più maleducato. Guardi, non voglio neanche confrontarmi con certe persone, ma sono persone non di che siedono in Parlamento o non persone conosciute. Credo che il più maleducato in assoluto, ma per chi ha incarichi di partito, può essere la pseudo segretaria del PD Veneto, ma insomma, siccome non considero lista dei valori, chiuso. Che si chiama, io non la segretaria del PD. Ma credo che non la conosca nessuno, pertanto neanche mi interessa dare il suo nome. Vabbè. La ringrazio, onorevole Calearo, lei, per essere stato con noi. Massimo Calearo, vedremo oggi ovviamente il voto, alle 11 lo seguiremo in diretta. Noi parliamo nel sondaggio di oggi di questa vicenda privata, una donazione di organo negata da una sorella a un'altra sorella e la gogna pubblica vera e propria a Padova. Così uccidi tua sorella. Ma vi sembra un'accusa giusta, oppure uno può decidere autonomamente anche di non fare una donazione per motivi insindacabili, per motivi personali? 24 mattino. E allora alle 8:35 minuti, rientrando dalla pubblicità, siamo pronti al nostro sondaggio di oggi. Io soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? Oggi parliamo di una vicenda molto delicata. La domanda potrebbe essere posta così: va tutelata, secondo voi, la libertà di chi rifiuta la donazione di un organo, anche se fosse l'unico donatore disponibile per salvare una vita, per esempio? Qualche giorno fa abbiamo preso spunto da questa vicenda. A Padova è comparsa una scritta: Luisa ucciderà sua sorella se non donerà il suo midollo. Una frase shock che ha trasformato una vicenda personale tra due sorelle in un fatto pubblico. Qualcuno dice che ha trasformato una vicenda personale in una gogna pubblica nei confronti di una persona che ha deciso di non donare alla sorella il midollo, alla sorella malata gravemente. Insomma, per motivi suoi insindacabili, insomma, che però pone questa domanda. Allora, è giusta un'accusa del genere oppure bisogna tutelare sempre la libertà di dire anche no di fronte a una domanda così, così importante e così seria? Ne vogliamo parlare intanto con due ospiti. Cinzia Caporale, buongiorno. Buongiorno. Insegna bioetica alla Sapienza. Il professor Alessandro Nanni Costa, che è il direttore del Centro Nazionale Trapianti. Buongiorno, professor Nanni Costa. Eccoci qua. Intanto io però vi chiedo di ascoltare e la voglio ringraziare immensamente. Ci parla dall'altra parte del mondo, sono le 19:30, 11 ore avanti, dalla Nuova Zelanda, da Auckland. La chiamiamo la signora Paola, che è un medico tra l'altro e che saluto. Buongiorno signora Paola. Buongiorno. Lei è una delle due protagoniste, devo dire due protagoniste perché sono diventate due. Lei è appunto un medico, diciamo sui 50 anni, non ne diciamo il cognome per ovvi motivi, è la persona che si è ammalata di una forma di leucemia molto grave. Intanto le voglio chiedere, insomma, questa vicenda è esplosa come un fatto di cronaca per questo striscione che ha pubblicamente additato sua sorella a dire: se non dona il midollo uccide sua sorella. Lei come ha preso questa vicenda, che è forse aggiunto un dramma minore rispetto al dramma che sta vivendo lei? Con molta sorpresa ovviamente all'inizio, perché essendo dall'altra parte del mondo ne sono stata informata anche in ritardo, diciamo, quindi io e poi non riesco nemmeno a sapere cosa può pensare la gente o cosa può commentare su una vicenda di questo genere. Io, mio malgrado, sono una delle protagoniste e credo che la scritta così forse è realmente molto scioccante, anche perché c'è talmente tanta disinformazione da tutte le parti con quello che si riferisce ai trapianti, ai donatori di midollo, eccetera, e quindi si crea un sacco di confusione, io credo, in generale. Io penso che poi bisognerebbe analizzare caso per caso, e allora lì si andrebbe veramente nel privato delle persone. Certo. Ma io se le chiedessi in maniera diretta, secondo lei va tutelata la libertà di sua sorella di dire no, per motivi che forse voi saprete, che lei saprà, che insindacabili, se vuole? Certamente sì, dal punto di vista mio personale, della mia etica e della mia morale, sicuramente sì. Nessuno deve essere mai forzato a fare qualcosa che non si sente di fare. Assolutamente, qui io non ho assolutamente dubbi, e in effetti questo, per arrivare un momento a un particolare, quando io sono stata informata della decisione di mia sorella, e questo sto parlando nel mese di luglio, non direttamente nemmeno da lei, e questo mi ha fatto molto dolore ovviamente, perché non ho avuto la conversazione con lei che mi sarebbe piaciuta, una giustificazione, una spiegazione a questa negazione, ma mi è stato solo comunicato che mia sorella, per ragioni in quel momento, cioè implausibili secondo me, perché si diceva solamente perché non aveva l'età, perché non era, doveva essere più giovane, e quindi per me come medico, come sorella, non era una giustificazione sufficiente. Noi abbiamo 22 mesi di differenza, ma dopo quella chiamata in cui sono stata informata, io per praticamente 2 mesi assolutamente non ho fatto nessun tipo di tentativo di contatto, di pressione, di niente. Sì. Io poi, mi sono isolata, sono lontana, quindi non c'è problema. E ho avuto questa fiducia che si potesse trovare un donatore non familiare il più possibile compatibile con me, cercandone i registri internazionali di tutto il mondo. Certo, perché il dramma anche etico è questo, cioè che sua sorella sarebbe la perfezione dal punto di vista della compatibilità, mi pare di aver capito. Perlomeno diciamo che è la più desiderabile donatrice che potrei trovare. E questo poi detto adesso, dopo praticamente 2 mesi e mezzo di febbrile ricerca a livello di tutti i registri mondiali, perché da qui hanno fatto qualsiasi tipo di ricerca, io posso dire che si è trovato solo, unicamente, un unico donante non familiare e non completamente compatibile. Quando io ho saputo questa notizia dai miei medici trattanti qui, per un dovere verso mia figlia, che magari probabilmente rimarrà orfana, e il mio marito, ho chiamato mia sorella e le ho detto: guarda che purtroppo non abbiamo trovato nessun donante. Quindi ecco, lei ha anticipato, questa veramente è stata come una mia, in qualche modo, ripensaci per piacere, perché se potessi evitare qualsiasi tipo di problema anche psicologico, io capisco le paure eccetera, non mi è stata mai data la possibilità di poter spiegare o di poter far incontrare mia sorella con persone, specialisti anche a Padova, che sapevano e potevano chiarire la situazione. Perché evidentemente ha trovato anche una sorta di muro, ma quindi c'è stato un contatto poi telefonico con sua sorella. Certo, c'è stato, non mi ha assolutamente, mi ha messo giù il telefono praticamente, letteralmente, e credo che questo sia stata la ragione per cui qualcuno in Italia, non so esattamente chi, ma sicuramente qualcuno che davvero mi vuole bene, ha fatto questo atto estremo, questo striscione, questa scritta, che effettivamente è una scritta molto, molto forte, cioè questo sì. Certo, durissima, molto ovviamente. Molto dura. Ecco, rimanga con noi ovviamente Paola, io voglio coinvolgere Cinzia Caporale intanto. Questa è la storia in estrema sintesi, anche che entra in vicende personali nelle quali non vogliamo sindacare, però la domanda di fondo è questa: cioè tutelare la libertà di chi rifiuta la donazione di un organo, la direzione del midollo in questo caso, chi rifiuta di fare un gesto del genere, fino a dove bisogna spingersi per tutelare questa libertà, professoressa Caporale, secondo lei? Guardi, io posso fare un inquadramento di tipo bioetico, naturalmente l'autonomia e il consenso sono i capitali, insomma, la pietra angolare della bioetica. Senza il principio del consenso libero e informato non ci sarebbe, come dire, mondo moderno. Ma ancora più importante è il diritto a rifiutare il consenso. Lo sanno bene i medici quando acquisiscono il consenso per una sperimentazione o per una terapia importante, non possono essere direttivi, non possono tacere informazioni, non possono spingere il paziente neanche quando è nel suo stesso interesse. Possono appunto informare su questo, magari poi le modalità di informazione ci ritorniamo. Per inquadrarlo meglio direi questo: quello che si chiede alla sorella della signora, che saluto naturalmente, è un cosiddetto atto supererogatorio, cioè un atto che è incoraggiato dalla morale, indubbiamente sarebbe bello se lo facesse, però che non è moralmente obbligatorio, questo perché comporta un certo livello di sacrificio personale, il livello di sacrificio personale è valutato dalla stessa persona che dà il consenso. Rimane vero, cioè, che fare donare sarebbe ammirevole, sarebbe un atto appunto moralmente bello, però non possiamo essere forzati a farlo. Non creare aspettative. Su questo sicuramente vorrei anche un parere prima di andare alle informazioni sul traffico, magari se è sintetico, professor Nanni Costa. Cioè, quando io mi sono sentito ieri al telefono con la signora Paola in diretta da Auckland, voglio ricordare, da Nuova Zelanda, ha detto: forse, lo dico io, lei è stata molto gentile a dire forse c'è poca informazione. Io dico forse c'è molta ignoranza nel nostro paese su alcuni temi, questo forse è uno di quelli, e questo porta anche a fare delle scelte che, ripeto, non sono sindacabili, non le voglio mettere in discussione. Professor Nanni Costa. Io vorrei dire 3 parole. La prima parola è informazione, la seconda parola è presa in carico, accoglienza, e la terza parola è la libertà di scelta. Qui bisogna verificare, e in generale vorrei staccarmi da questo caso, l'informazione che viene data alla persona che deve donare, quindi deve in qualche modo esporsi a un rischio, rispetto al reale rischio zero che esiste in queste procedure. Questa è la prima cosa. La seconda cosa è la presa in carico dei problemi che questa persona può avere, perché è chiaro che se una persona ha dubbi, problematiche, nel momento in cui va a fare il test che consente di scoprire questa idoneità, quindi evidentemente c'è un primo momento, se non altro, di presunta disponibilità, perché altrimenti non avrebbe fatto il test, esiste una necessità di presa in carico. Anche qua non mi voglio riferire a questo caso, sì, ma è un momento ed è un passaggio delicato questo, e lo si sa che è un passaggio delicato, perché quanto è successo in questa situazione, in condizioni contestuali davvero difficili, è però una cosa che sia pure raramente successa in ogni centro dove si fanno queste procedure. Poi la terza parola, sì, è la libertà di scelta. Se parliamo di donazione, la libertà di scelta della persona, in questo caso pienamente consapevole, che dispone di una cosa di cui evidentissimamente dispone, che è una parte delle sue cellule, in piena coscienza va assolutamente rispettata. Questo è il fondamento di tutte le nostre attività, la libertà di scelta. E questo, e su questo non si discute. Io soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? Allora, stiamo parlando oggi di questa vicenda personale, molto personale, ma che è diventato un fatto di cronaca in Italia, e siamo in collegamento con la signora Paola, che ci parla dalla Nuova Zelanda, che sta vivendo un grave problema di salute affetta da leucemia, e la notizia è diventata che la donatrice potenziale, sua sorella, ha deciso per motivi suoi di non donare il midollo. Per questo è apparso uno striscione nei giorni scorsi a Padova, nella città dove risiede la sorella, a dire: guarda che così uccidi tua sorella, in maniera molto brutale e diretta. Signora Paola, ecco, io le chiedo, lei ha detto, ha parlato, ha avuto una conversazione, immagino, ci ha raccontato, non felice con sua sorella, eccetera. Lei, tutelando questa libertà di scelta, che anche lei tutela, ha mai provato di far sentire in colpa sua sorella? Cioè, ha mai pensato che sua sorella debba in qualche modo sentirsi in colpa per questa scelta che fa? Guardi, sì, obiettivamente io come paziente e come sorella, certamente, perché soprattutto mia sorella ha accettato volontariamente di fare l'esame di compatibilità. Quindi anche se sapevamo dall'inizio che, essendo due sorelle, era solo il 25% di possibilità di compatibilità, e quando, appunto, dopo aver fatto l'esame, perché se uno dall'inizio dice no, guarda, io non posso, non voglio, ho paura, eccetera, ok, ma fa l'esame e poi mi dice no, guarda, io sono compatibile, ma no. Allora, a quel punto, in varie occasioni, l'ho proprio pensato, ho detto: come potrà vivere lei nel suo futuro quando, col mio tipo di leucemia, non è che ho molte speranze di sopravvivere. Certo, ovviamente, lo spero, però la cosa quasi certa è che invece non sarà una lunga vita. Ecco, come vivrà una persona questo? Soprattutto se è una persona tua consanguinea. Ecco, mi domandavo questo, certo, capisce? Però lei, anche quando ci siamo sentiti ieri, ha detto: io, per carità, voglio intervenire, io di questo nuovamente la ringrazio, però non voglio che appaia come un tentativo di convincimento, di cercare di convincere ulteriormente mia sorella. Cioè, una scelta lei l'ha infatti fatta. Infatti lo è assolutamente, completamente. Cioè, io non voglio convincere proprio assolutamente nessuno, perché andrebbe veramente contro anche i miei principi etici. Assolutamente, non ho dubbi a questo proposito, ma il fatto è che come paziente, come diciamo vittima di una situazione non voluta, i sentimenti sono molto diversi, capisce? Ci sono momenti di estrema frustrazione e momenti di dolore estremo. Ma questi sono assolutamente capibili, un po' difficile, assolutamente capibili, che è giusto che rimangano anche, diciamo, nel vostro intimo, certo, nella vostra privacy. Io vogliamo sentire cosa ne pensa un ascoltatore, scegliamo lui, perché insomma la storia anche è molto delicata, molto personale. Nicola dalla provincia di Chieti, che ci ha chiamato all'800 24 00 24. Dica, Nicola, che dice lei? Buongiorno. Dica. Pronto? Dica, Nicola, in diretta. Buongiorno, ascolti, io volevo semplicemente dire questo, che Per una sorella che non ha il coraggio di donare il midollo appunto alla sorella, credo che sia come mandarla al macello, cioè è la stessa cosa che se prendesse la pistola e la ammazzasse. Lei è così tranciante. Cinzia Caporale, ecco, questo è il punto che è il punto dello striscione. La libertà l'abbiamo assodata tutti, però Nicola ci dice sì, la libertà, però è come se c'è scritto in quello striscione, come se la uccidesse. Cinzia Caporale. Guardi, è esattamente il contrario, è la cosa che cercavo di spiegare. Andare incontro a un atto medico, per quanto si possa avere informazioni oggi, ricevere informazioni è piuttosto facile, soprattutto per un insegnante, avrà parlato con dei medici, avrà consultato i siti ufficiali, per esempio quelli del dottor Nanni Costa, quindi non credo che sia il problema di informazione. Semmai è un problema di percezione del rischio, di capacità di valutare il rischio. Io credo che sia questo il problema, negare, come ha fatto peraltro anche il dottor Nanni Costa, che vi sia, ha parlato di rischio zero, ecco, non è vero, esistono dei rischi. Il problema della nostra società è che è una specie di mondo infantilizzato in cui ciascuno di noi pretende dallo Stato appunto una vita a rischio zero. Questa è una pura illusione. Dovremmo rieducarci al concetto di rischio, assumere informazioni ed essere in grado di tollerare un certo margine di rischio. In questo, come dire, io sarei molto felice se la signora aderisse e donasse il suo midollo. Tuttavia, attenzione all'effetto boomerang. Se fare il test di compatibilità viene percepito come un obbligo poi a consentire l'espianto, corriamo un rischio fortissimo per la dimensione generale del problema. Cioè, chi avendo qualche incertezza farebbe il test pensando che poi non può più tirarsi indietro? Quindi attenzione anche in questi giorni come facciamo comunicazione, perché rischiamo di diminuire drasticamente il numero di persone disponibili a fare il test. A questo proposito, non c'è alcun obbligo morale. Sì. Professor Nanni Costa, c'è un comportamento morale da incoraggiare, ma appunto personale. Sì, certo, da incoraggiare, poi le scelte sono personali, questo l'abbiamo già ribadito. Professor Nanni Costa, il reale rischio zero, come qualcuno ci chiede, che vuol dire? Io adesso mi esprimerò, ma dopo il rischio zero le chiedo di lasciarmi parlare un attimo, anche perché il primo intervento è stato abbastanza compresso per ragioni tecniche. Abbiamo un minuto e mezzo, però rispetto al rischio zero il concetto è questo: è chiaro che nessun atto medico è a rischio zero. E quindi il rischio di un prelievo, che può essere in questo caso di sangue dopo una certa procedura, o un prelievo da un piccolo intervento chirurgico che viene fatto in sala operatoria e che non dà nessun tipo di dolore, né prima né dopo, è più alto il rischio di spostarsi nel traffico per raggiungere l'ospedale che non il rischio di questo. Perfetto, quindi questo l'abbiamo chiarito. Cominciamo a dare... però bisogna spiegarlo. Ma è giusto, è qui per se questo, professore. Perché io dico professore, che il rischio non è zero... Che cosa dico? Non c'è il rischio zero neanche. Signora, lei rischia di più a prendere la macchina e venire in ospedale col traffico che non a fare queste procedure, allora le ho in qualche modo spiegato che cosa succede. Questo è un punto chiave. Io, come dico, ho messo come premessa che non voglio discutere i particolari di questo, discuto di particolari che anche rispetto a quello che hanno i colleghi, che non staranno bene neanche loro di Padova, che hanno seguito questa cosa. Non voglio assolutamente, cioè li rispetto molto, tanto che noi sappiamo che qualche caso, non sono frequenti, ma non è il primo, all'interno di altre famiglie c'è stato di rifiuto. Quindi in realtà è la stessa cosa succede con le donazioni di organi da donatore vivente. E quindi noi sappiamo che esiste questa possibilità. Qui non c'è possibilità zero. Come fare per gestire queste situazioni? Comunque garantire la libertà della persona di dire di no. Comunque, fino all'ultimo momento, faccio l'esempio dei trapianti d'organo da vivente, ma qua è uguale, si garantisce alla persona la possibilità di cambiare idea fino all'ultimo momento. Quindi il rispetto è totale. Va prima bene. Cosa. Secondo punto che vorrei stressare in generale è il discorso della presa in carico. Cioè io devo affrontare questa situazione dall'inizio delle procedure, sapendo che qualcuno può uscire da questa procedura e quindi devo cercare di avere una presa in carico del problema, che non vuole dire certo obbligare a fare quello che intendo io, perché c'è quello che abbiamo detto prima, rispetto assoluto, però vuol dire, signora, cerchiamo di spiegarle qual è bene la procedura, tutta la procedura, quali sono i rischi, e anche che lei ha la possibilità di vivere rispetto a questa procedura una sua problematica, ma che in ogni momento noi siamo disponibili, siamo qua per riceverla, per darle, per chiarire, per dare informazioni. Io qua mi devo però fermare, professore, e la ringrazio, così come la professoressa Caporale e la signora Paola da Auckland, ovviamente le auguriamo tanta fortuna, e la ringrazio per essere stata con noi. Con Antonella Migliaccio in redazione e Peter Bescapè in regia, la linea va a Oscar Giannino. A domani.